Dio, puoi bella San Dio, mi senti? Io sì, ti sento. Ok, meglio così. Porco Dio. Emo. Porco Dio. Porco cane. Porco cane. Fanculo. Ti sentono bene? Ah? Questi sentono bene? Per poco. Aspetta. Io. Ciao. Ciao, così e basta. Sono professionali. Ma se te lo stai cagando? Sì, sono professionali. Non lo so. Oh, fa un culo. Ah, fa un culo pure a te. Sì, molto gentile. Ho bisogno di un po' di dimucro e hai un gatto. Ciao. Ciao, gatto. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, gatto. Mi sono dato il telefono. Stavolta in culo. Apri il culo che ti voglio. Ah? Oddio, mi sento, mi senti? Passa il pallone, Vittorio, passa il pallone. Dimmi. Sembra uno spirito. Sì. Fammi un pupino. No. Cosa? Roberto e Rosa. No, me lo devi fare adesso. Cosa? Il pupino me lo devi fare adesso. Rosa? No, ma dai, io che so, cosa? Vedi, vedi, la vestita rosa, non vedo quello che lo baciamo. Cosa? Oh, cazzo. Mi stai rubando in culo. Ehi, a chi è? Ehi, a te solo. Visto che ti piace un bel. Ehi, su chi piace a te? A te, a mamma, a te, a mamma, a te, a pronto? Pronto, apri quello che ti monto. Pronto, pipì? Cosa? Pipì? Ah! A pipì? A pipì? A pipì? Pipì, ruga, già. Oggio. Ma... Io apri il culo che ti monto, che non sa di fare l'amore. Qualcuno? Ci vai a fanculo, che cazzo ha mai mandato in a fanculo? Fanculo. Oh, baci? Ho preso la traversa, ma che sono forte. Per il mio San Dio, per il mio San Dio. Sì, ti sento, forte e chiaro. Ok, passi tutto. Tua sorella, tuo cugino, tua sorella, tuo cugino, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok, passi tutto. Thank you. Ma c'è la pistola che sei, gufo! PMR. No. Vabbè, grazie. Ora stai facendo l'aerosol. Mi sto ritirando le medicine e la macchinetta. Già entro fra un po'. Ma stai usando, grazie. L'aerosol. Le medicine. Cosa stai usando? Clenil. Clenil e poi delle gocce. Gocce Bronco Valles, 5 mg. Già fa bene, dai. Deve fare il suo corso, inutile, vedi, anche io sono guarito. Vabbè, tanto noi non subito, ma fai una mezz'oretta ancora. Tre quarti d'ora poi usciamo. Adesso sono qua, comunque, chiama. Vabbè, si confusi, anzi, poi attacco anche la 27, così non posso funzionare un po'. A chi no che da poi si entra lì che c'è un casino, come da rimane? Ne la girtù da giù. Io lo so, qua sono nel canale a fianco sono, si sentono di splatter. No, l'ho accesa adesso, che ho spento la TV, però me lo sto piegando tutto qua, là sul tavolo. Ma si sentono nei canali a fianco di Svatter, li sento io, poco a poco ma si sentono. Fai. Ai più alti gradi della conoscenza è ancora elevato, anzi la crisi finanziaria, il ciclo economico avverso hanno determinato un impatto negativo sull'accesso alla formazione universitaria di studenti meritevoli. Il diritto alla conoscenza e alla formazione era tanto sanciti a livello costituzionale, ma perché scritti come cifra indelebile della nostra cultura. Tipo di splatter. No, perché è venuta gente, se ne è andata. Sì, Comunque, sentivamo di sbattere, gli ho detto di spostarsi a lungo. E spostateci su. Ah, boh. No, io non risento. E non è entrato nessuno. Tu non risenti perché io ho più vicino a te. A me vengono di fronte, capito? Sei coperto dal palazzo dove sono io. E un po' ti copre. Cioè, nel senso, un po' ti... Se parlano loro, mica ti coprono un po', eh. Oh, boh. No, no, non lo intendavano. Ancora l'intendia, ci intendiamo un fruscio, boh. Anche poco fa sentivo un fischio, vabbè. Che se ne frega. Sì, vabbè. Ah, già non si intende usa. E non è entrato nessun altro, manco 8 ore. Guardi che buona sera, quindi mi va. Cosa basta cambiare canale? In un canale dove non ci sono loro. Lo so, ma disturbano, capito. Basta, bruh. Cosa vestigliano, bruh. Cosa li fai, bruh. Grazie, da 27, grazie. Già non ne possono adoperare, ma con tassa c'hanno qui, bruh. A quanto ho capito, Claudio ha detto che bisogna essere maggiorenni per poterlo utilizzare. Basta leggere su internet e c'è, trovi tutto, c'è scritto lì per vedere che età devi avere per adoperarlo. Mi pare la via lì, mi sembra ci vogliono 18 anni per adoperare questo. C'è il baracchino, no? Baracchino è diverso. Il baracchino era 16 anni, me lo ricordo. E cosa vuoi ti dica, Grazia? Cosa vuoi che ti dica? Noi lo diciamo per le buone e poi peggio per loro. Basta. Fabrizio entra in capo. Vabbè, Vittorio non è a colpa, però. Così ha detto. L'ho sentito ieri qua parlando che gli dispiace di scusarlo, ma non sono amici suoi, dice. E non stavano usando attrezzatura sua. Vabbè, che non siamo amici di Vittorio, poco vi credo. Comunque, io gliel'ho detto di dirglielo. Infatti ieri mi ha detto, dice, che il prete li ha sequestrati, questi walkie-talkie, chiamiamoli così, a quei ragazzi. Così l'ho detto, oggi ti dico. Balla, ma l'ho detto e balla ti dico. Sequestrato. Se l'avranno mandato adesso in paese, era un brito, già. Ma se sono i suoi, cosa gli sequestra? Chi se non sono scemi che vi rilassi, io. Balla, ma detto balla ti dico, se ne so. Vabbè, tutti musini là. Niente, siccome mi hanno regalato mia sorella una bicicletta con le ruotelline per bambini, no? E allora mia moglie ha chiamato il marito della nipote a venire a prendersela per il figlio, che già va bene. E se si era buscato male, giusto a baldarsi, è nuova, nuova. Ma già non ti vedi come di voi, si lampati, se no, gascionetto, nuove, nuove, mi. Anche quelle macchinette in plastica, quattro ruote, batteria, buttate lì nel cassonetto. No, ma questa non è piccolina, insomma, cosa di busto lì? Appena più piccola della 26, là. Sarà una 24. Una cosa del genere, mi sa. E c'è anche le ruotelline alzate. Se non bisevono, si la bacia e impara. Già la sa usare il figlio. Volendo già si impara. Già ce l'ha. Io mi ricordo in estate in piazza, scendeva in piazza con la bicicletta, simile a quella, però più piccola. E la paoletta ha detto, se la voleva per il figlio, ha detto, dammela, è bene a pigliare figlia. Invece, è giusto a bendarsela, se l'ha buttato male. Ho capito. Vabbè, almeno se la usano. No, che è un peccato, è nuova, nuova. Siccome il padrone, non so che ve l'ha comprata più manna, non so che cosa, E quella lì era un peccato a buttarla, l'ha data mia sorella a sorso. E mia sorella mi ha detto se c'avevo qualche nipote, e l'ha detto di sì, e me ne era salita oggi, stasera da sorso. E anche un paio di borse di roba per bambino piccolo mi ha detto, nuova, nuova, adesso per l'età la deve dare a una ragazza che ha dei bambini. Vabbè, prima di buttarla è meglio chiedere a qualcuno se la vuole. No, la roba già la dà sempre, quella che mi danno a me. No, vami pure una lavata pranciata. E l'ho data anche qui mi, di fronte a casa a una signora che la figlia ha segnalato e va via il bambino minore. Ogni tanto la do a quella. Non va nulla, già se la prende. Sì, meglio così, grazie. Ripeto, per buttarla e buttarla. Nel senso, mai la portano in chiesa. Me lo sempre chiedere. Sai quanto ne mettono nel gruppo mio? Non ne hai idea. Se la prendono pure. È un peccato a buttarla. È tutta roba di marca, non è roba di cinesi. Tutta roba di bambino, di negozi, e di marca, amico. E pure di uno, più di uno, secondo me, se la vende sa roba. Oppure se la prende gente che ne ha bisogno, no? Ma se gliela regalano. E poi c'è mia figlia Debra Sassarivecci in via Turritana, beh, questa signora mi pare fa già 16 figliuli, minore di Burunna, e un sacco di roba, anche roba mia gli ho dato, nuova, che non mi mettevo più per il marito. L'ho data a quella, e non le farò due vero al marito. Ma tu subudiava un nodo per farsi cazzo 16 figliuli. E Debra mi ha detto che di nuovo è incinta. È un nodo, non si può dire a farlo, marito. A bisogno non ha il televisore, a chi non ha le nuda. E così si figlioli, crocro. Già l'aiuteranno per darla a mangiare i figlioli, già li aiutano. Sono finiti questi nostro. Prima che a 7, che a 8, che a 10, che a 12. Lo so, grazie. Che c'è perché le sono? Sono le 7, mi sa. Ehi, vabbè, grazie, dai, io ti saluto che chiudo, sto uscendo. Ci sentiamo domani se Dio vuole, se non vuole ci sentiamo lo stesso, ci accomandiamo noi ancora. Saluta la Paoletta, anche da parte di Marina, ciao. Ciao, buona passeggiata. Ciao Marina. Saluta anche a Marina, ciao, bella be. Ciao bella, ciao, ciao Paoletta, ciao, ciao. Ciao, ciao, che ciao. Chi è che vuole entrare? Avanti. Ma giocato ti sei adesso? Finita l'hai? È meglio Mari. E c'è quello che si sta giocando. Se sarà giocato con la macchinetta della pipì sarebbe fatto bene. E allora? L'agaro Yugaia si tratta. Catta, ma quando mai che a te arriviamo un punto del genere? Comunque buonasera, grazie. Ehi, ciao. Mi rompete l'aria da Brigitte, E l'ho lasciato acceso qua sul tavolo. Ah, finito hai! L'aria sol, me l'ho fatto poco fa, però quando ho finito l'ha sbigliato tutto, doveva sentire la 27, che doveva entrare Giulio, invece me l'ha niente e se ne è andato avanti. Ah, ma ora mi servo, ero il 27, però l'ho parlato solato, sono ad aprire, adesso sono rimasti in quel ricchi, sì. Perché stanno parlando loro, c'è Antonello, Gianfranco e Franco, ma io sono in quel Rix, là. E dunque non è acceso 26, oramai è tardi. Ehi, da poc'anzi non so se mi hai sentito che ti ho detto accendere la 27, forse non mi avete sentito. Aspetta un attimo. Ehi, stavo guardando qua, c'è quella scala pieghevole, lunga, tutta in alluminio, che c'è anche la base sotto più larga, fanno d'asse di burta, ed è pieghevole, 70 euro la stanno vendendo. E dov'è? A Olbia, lì, scala universale in alluminio, richiudi, e poi la puoi richiudere, manna, è ben bella. E prenditela! E chi sa già, avranno il gioco. Boh, secondo me arrivi fino a metà, al piano di casa, da giù. E tu ordite, ho già te la porta, vai. Te la porto, se ti piace. Una scala così lunga è comoda. Già ce l'ho quella come quella che c'hai tu. Però è in ferro, messa un trono. Quella uguale a quella che c'è, tu ce l'ho, ma un bel pesante. Un bel pesante? Ehi, quella pieghevole che c'hai tu, ti ricordi che l'avevi portata qua? Pesa troppo, e non vi lascio in garage, non va nuova. Non l'ho mai trattata, una lì in garage l'ha già trattata e buh. Sono comode, sono comode. Questo è in alluminio, mi ricordo ce l'aveva il mio principale, però non era richiudibile. Chissà, voi allungate solo una berra e vi so 12 gradi, no 16 gradi, 16 e 16, quanto è? 30, 32 gradi, va tutta lunga. Se uno gli piace, capito? Vabbè, se a uno non gli piace, va bene. No, non è cosa di piacere, è che è una comodità. Non è infatti pesante. Infatti l'ho scritto, gli ho mandato un'email a vedere che tu bizza. Un attimo ha risuonato. La risposta. A chi sei vaggio? È in ferro, in garage. Ma pesa troppo. Se ne va da stare la mazza a sanni dai nuovi. Tore, non si è sentito. Grazie, scusa, hanno stato la porta. È stato parlato, sono andato a aprire. L'ha descritto, a vedere che tu pesa. Dai, scusi, allai. Mi deve dare la risposta, non so cosa la va. Boh, se me la va. Si è aperto già. Dati tutta la risposta. A Olbia è un negozio. Ma già lo sai, ho computer, ho col telefonino, arrivo subito. Avanti, non ha un beso, non mi manda un beso. Vediamo quanto pesa. Perché quella là è troppo pesante, poi è di ferro. Ma è più forte, il ferro è più forte, la rusaia. Lo so, però chi si allunga tre volte di chissà, rusaia. Ed è un bel comodo a me, perché quella dove lavoravo, solo che quella non era pieghevole, però allungava un bimbi. Alzava in altro capannone e non l'alzavo nemmeno tutta io, chissà cara. Questa è comoda perché allunga un bel e poi è anche pieghevole, capito? bottiglia e mi ho preso una dalla Bricco per mia figlia l'estate scorsa, quella precisa, quella che ho io, vai. Sì, mi sembra che sia 5 metri, mi sembra che sia. E sono belle, poi sono robuste, oh, la mia è più robusta di quella che ho preso dalla Bricco, E allora avevo pagato 85.000 lire, l'avevo preso quella lì. Invece questa ho preso dalla Bricco per mia figlia, l'avevo pagata 65, se non sbaglio, mi sembra, Ma che c'è 70 euro, è una signora Scala, è regalata, ma a me te la Bricco me. Però non era pieghevole come questa, costava una barca di soldi, mi sembra sulle 140 euro costava. Questa è pieghevole ed è lunga cantuccia di la Bricco me. Chi allunga. Quella che c'ha il coso largo sotto, per non rovesciarsi, quella lì. Ho capito. Quella è comoda, E sei più tranquillo con quella lì, invece il mio non ce l'ha, quello lì. Ma quella che c'hanno la traversa più lunga, per non rovesciarsi, quelli sono comodi. E vanno bene quelli, almeno sei più tranquillo là. Cosa di quelle? Però questa è pieghevole. La bici come te chi sa di ferro che vai, due che va giù in garage. Capito? Ed è un bella. Infatti, quella pieghevole conviene, infatti. Io perché l'ho presa io? Perché un motivo? Perché è pieghevole, capito? E così è quella di mia figlia stessa. 4-5 metri, capito? Sono comode. La mia è delle prime che sono uscite così e costavano, poi sono più grosse, come materiale sono più grosse. Mi dirà che pesano, ma se pesa però è più tranquilla una, capito? Ci sono anche quelli in alluminio pure, che sono pieghevole stesso, sono comode anche quelle. Capito? Però oggi, se voi a voi la precisione, un po' di rapporto, però una scala buona, la pari sulle 80, 75, 80 euro e più la costa, no? Lo so, ci sono così giorni che si va in garage. L'ho comprata, però non ne ha giù mai assata, è ovvia, che pesa un trono, ed è uguale a quella che c'hai tu, in ferro allungabile. Ma è troppo pesante, chissà. E beh, mi ne faccio uscire la canna e sa cara. Non è così pesante, gatta. Non è così pesante. Per cui io, perlomeno, io è una scala normale, capito? Però ci sono più leggere anche. Ci sono più leggeri, in alluminio sono più leggeri, per cui magari a uno se interessa può prendere quelli in alluminio, per cui pesano di meno, Però io ho preferito questa qua perché è robusta e mi sta bene quella lì, capito? Ma a me è pesante, già ce l'ho qua i 5 gradini o 6 gradini in alluminio. Però quella lì è un bel comoda perché chissà, può pure battere la gabbissuglia, chissà l'allunga tanto di viaggio, hai compreso? Se infatti ci devi mullare senza baciare l'antenna, devi giambare un filo come tu devi giambare. Ma poi chissà, là ci arrivi benissimo, a che è un bel lunga, capito? Quella è una bella scala. Sono comode perché sono doppie, capito? Sono doppie pure, capito? Per cui vanno bene anche così. Se non lo puoi allungare tutta, se non vuoi mettere dritta, la metti in due parti e va bene ugualmente, capito? Mi sembra che 4 metri a forbice, capito? Ehi, non lo so, quella che c'ho in garage è uguale alla tua, quella di ferro. Oh, già parli via a te, si brucola duia con quella lì che c'ho in garage. Però oh, è pesante, no? Non è più di chissà. Oh, manco muscio. L'altra volta mi hanno pigliato chissà, ma giù muscio, un trabattello. Da me giù muscio la cara chissà, immagino che in alluminio. Sopra un trabattello, già mi sono carrivito. Prendete la grazia. Sento la porta, la prendela subito. Ci sono comode quelle lì. Poi è leggera. Ehi, adesso vediamo appena mi manda il peso. Non penso che pesi a più di chissà di ferro. Vabbè, mi ha detto di là, com'è, come lo è, capito? Poi, se c'è la fotografia. Ehi, c'è la fotografia, c'è aperta lunga, lunga, lunga, ma un bel longa. Poi c'è fatta a ponte, e poi c'è abbassata e tutta impacchettata, tutta chiusa. I gradini, tutto uno attaccato all'altro, quando è chiusa, è pigia dentro. Ehi, eia. Ehi, sto comodo qua. Sono sempre comodo quelle scale così, capito? Per cui... Ma io... c'ho questa qua e basta, non c'è l'altra. In campagna ho preso quella di tubo. Ma è in campagna quella lì e non è tanto sicura pure, capito? Mentre invece questa che qua è tranquilla. Certo, se questa che ho io avrebbe avuto la traversa per non rovesciarsi sarebbe stata l'ideale, mentre invece non ne ha. Però quelli così che stanno a traversa lunga sono molto comode perché sei più tranquillo di quella che ho io, capito? Ma volendo a quella che c'hai tu, la traversa gliela puoi fare tu, basta che ti procuri uno scatolato di alluminio, gli fai buchi, nella scala e gli poni due bulloni, una a destra e una a sinistra, e ti fai la sbarra per quando l'allunghi tutta, ma non caputtassi. Capito? Poi l'imburigheggi dei gommini a destra e a sinistra, ci hanno vendi i tacchetti in gomma e li buoni i tacchetti. Si va la poi burvara a duia, chissà chi vai giù. Ehi, avame fuori, avame buca a fa'ui, lo saranno. Ehi, non la giocava, la lascio così andare. Sto più attento magari e basta, capito? Non è possibile davaglielo. Da prima ci dovevo pensare, ma non esistevano quelli lì allora. È già 3-4 anni che sono uscite, e più mi sembra queste traverse così, capito? Attimi, c'era una, quello di Corfine Rio, in campagna. È lunga lunga, tutti in alluminio, bella, fortissima, e c'ha quella traversa e non si gira, capito? E poi nel caso mai che la puoi anche legare via all'albero, metti un pezzo di corda, te la leghi e non si gira e sei più tranquillo anche. Lo so, no, in campagna mi la giù di tubo di ferro, un amare che ne venga, è longa a chi è longa, ma poco bene, è di chi di cantieri che si usavano un tempo, già pesa poco già, oh yeah. E poi ne ho un'altra di cosa, tutta in resina di quelle che usano quelli che fanno impianti di telefono eccetera, anche una di quelle ne ho di 4 metri e più, anche qui, poi c'ho anche un altro 2 metri per aggiungerla, si può immaginare, e 4 metri più un altro 2 metri per aggiungerla, ancora qui si maggio. E anche il piede di gomma per lo scivolare c'è. Cioè, quella c'è in campagna pure. E gli siamo qui passati in mezzo a Lebano, in campagna. No, non siamo riusciti a mai, no. Ma che tutta in resi, hai capito? Già le conosco quelle scalini. Ma quelle col tempo poi, se non ridai una baciata di dita, quando andi a pigliarla, e come metti lo stilo di l'antenna, ti butti tutti i mani. Grazie, devo chiudere, dai, che è brutta gente, dai, ci sentiamo. Saluto Riccardo, a domani, grazie, ok? Ciao, a domani, intanto chiudo pure io, tanto Torre non ve. E prendi la bandiera a Guido e Piantenni Cazzoffa. Vabbè, ciao, buonasera a voi tutti, a domani. Ehi, ciao, ci sentiamo, grazie.